cominciare La forma dell'acqua. Gli ascoltatori sono pregati di prendere posto. La forma dell'acqua. Musica e intrattenimento su Radio Città Fujiko. Buongiorno e ben ritrovati, l'estate delle frequenze di Radio Città Fujiko diventa speciale con La forma dell'acqua di oggi, giovedì 11 luglio, e parte la seconda puntata dello Special Summer. Ai microfoni la vostra coppia di lunghi, William Piana e Elisa Iacobucci, che vi dà il buongiorno e vi accoglie a braccia aperte in questa puntatona all'interno della forma dell'acqua, appunto uno Special Summer tutto dedicato alla magia e l'armonia di quel signore che creò il pop con classe. Sto parlando proprio di Burt Bacharach. Eh sì, perché dopo aver viaggiato, ma anche essere tornati dal Brasile, dalla saudade, dai colori verde e oro della prima puntata, oggi invece, sempre con la nostra fantasia, avremo un ospite speciale con il quale vivere momenti felici. Burt Bacharach, beh, se fosse qui davvero probabilmente darei segni di follia ancora più evidenti. Sapessi io. Burt Bacharach invece, con la forza del dono naturale, dell'ottimo gusto e le note, cambierà in sordina la musica e la scrittura e ci regalerà magici momenti. Never forget the moment we kissed the night of the hayride, the way that we hugged to try to keep warm while taking a sleigh ride. Magic moments, memories we've been sharing. Magic moments when two hearts are caring. Time can't erase. Telephone call that tied up the line for hours and hours. The Saturday dance, I got up the nerve to send you some flowers. Magic moments, memories we've been sharing. Magic moments, when two hearts are caring. Time can't erase. Whenever our team was scoring a touchdown, the time that the floor fell out of my car when I put the clutch down, the penny arcade, the games that we played, the fun and the prizes, the Halloween hop when everyone came in funny disguises. Magic moments . I momenti magici finiscono così. Quale inizio e quale migliore inizio per Ricomo? Momenti magici, ed è un inizio, come ho detto, molto particolare, perché questo disco, Elisa, ha un primato. Ah sì, assolutamente il primato, perché è stato un successone e ha vinto anche un grandioso il disco d'oro, esatto. Il primo disco d'oro fondato dalla RIAA, l'ufficiale casa che ha fondato questo riconoscimento, e sarà Perry Como, musicista molto particolare, soprattutto molto di successo, con tantissimi brani incisi, e un nome italiano, Pierino. Pierino, esatto, un grandissimo showman della TV americana, vinse anche il Guinness dei primati come il presentatore più pagato al mondo, pensa. Pensa un po' quanti soldi. Piccolo Pierino. Il piccolo Pierino ha fatto fortuna, originario di un paese in provincia di Chieti. Dall'Abruzzo ha portato, diciamo così, il successo, l'ha esportato, tra virgolette, Barbacara, grandissimo gusto nella selezione dei suoi musicisti. Barbacara, questo compositore che faceva della raffinatezza il suo leitmotiv. Ricordiamo, nato a Kansas City il 12 maggio del 1928, pianista, direttore d'orchestra, e farà di tutto ciò il suo campo di battaglia. Perché? Perché vedremo poi nel proseguo della trasmissione di chi era direttore di orchestra. Ma adesso andiamo avanti con la nostra scaletta, dedicata interamente al nostro ospite che abbiamo qui negli studi, Barbacara. Esatto, infatti gli stavo per chiedere se mi passava l'acqua, però visto che ha questi arti immensi, almeno sfruttiamolo. Certo, se volete porre qualche domanda, noi sapremo tradurla fuori onda al 333-180-9494. In studio, almeno con la fantasia, con la fantasia siamo già abituati. Siamo esatto, in Brasile siamo stati, non possiamo avere Barbacara qui con noi. Infatti, ci mancherebbe altro. Io però mai fatto notare che ho fatto un piccolo errore cronologico. Sì, ma infatti voluto. Però in realtà poetica. Magic Moment è il secondo grandissimo successo della coppiata Barbacara e Hal David, perché in realtà il primo grande successo è The Story of My Life di Marty Robbins. E ce l'andiamo ad ascoltare. Someday I'm gonna write the story of my life. I'll tell about the night we met and how my heart can't forget the way you smiled at me. I want the world to know the story of my life. The moment when your lips met mine, and that first exciting time I held you close to me. The sorrow when our love was breaking up, the memory of a broken heart, then later on the joy of making up, never, never more to part. There's one thing left to do before my story's through. I've got to take you for my wife, so the story of my life can start and end with you. The sorrow and our love was breaking up, the memory of so one thing left to do before my story's through. I've got to take you for my wife, so the story of my life can start and end. Can start and end. Can start and end. E siamo solo agli inizi con la storia di Barbacara, o The Story of My Life, un testo particolarmente semplice, particolarmente immediato. Ma passiamo alla musica un momento solo. La grande capacità del compositore di Kansas City è quella proprio di saper cavalcare i successi del momento in quanto a generi. Andava molto negli anni 50 il country folk, bene, ben fatto, ok, ci abbino un suono molto più raffinato e molto più specifico, ci metto tutto il mio talento e sicuramente verrà un successo. A parole è facilissimo a fare. infatti ovviamente bisogna essere veramente toccati da una divinità per riuscire a fare tutto ciò. Evidentemente Barbacara lo è, e come. Si parlava di un testo immediato, e a questo punto vi è un incontro molto particolare che cambierà, per così dire, la storia della musica. È già molto molto particolare, perché The Story of My Life intanto rimase il primo posto per ben 4 settimane, e ovviamente non fu solo emerito di Barbacara, perché questa canzone coincide anche con un sodalizio artistico fondamentale nella sua carriera, cioè appunto l'incontro con Hal David, che è il paroliere che firmerà le liriche e tutti i grandi successi di Bacharach per i successivi anche 12 anni. E si può affermare senza alcun dubbio che la coppiata Bacharach-David rappresenti una delle accoppiate proprio più prolifiche della storia della musica, perché sì, hanno firmato successi a centinaia, davvero. Addirittura dei successi che, quando le persone non proprio appassionatissime di questo genere li ascoltano e si vanno a informare, dicono: ma come? Anche questa è di Barbacara. Ma è anche questa. Ma infatti preparatevi a schiarire la voce, perché oggi si canterà tanto. Potete cantare anche al 333-180-9494 per i vostri SMS. Abbiamo dato spazio a due grandi musicisti cantanti, Perry Como e quest'altro Marty Robbins, famoso per il suo country, grand hit country, è riuscito a cantare questo bravissimo cantante. Adesso è il momento di una grande donna. Dusty Springfield. Dusty Springfield, vita molto particolare, molto travagliata, ma talento infinito. Sarà una delle preferite come cantante, come esecutrice e interprete per Bat Baccarat. E intanto spazio alla musica e andiamo ad ascoltarci questa Wishing and Whooping. L'ho anche canticchiata, guarda. Siamo in diretta per parlare anche della grande Dusty, Mary, Isabel, Bernadette O'Brien. Si è scelto un nome d'arte molto più corto, probabilmente gliel'hanno affibbiato, perché essendo lei molto vivace, molto scappadizza, per così dire, con un termine felsineo, gli appioppiano il soprannome Dusty, polverosa, infatti, e lei ne farà un cavallo di battaglia, appunto, e soprattutto sarà molto importante la sua voce per tutto ciò che è considerato un soul bianco, un soul all'insegna del pop e cambierà tutto ciò che è la moda all'interno di Londra. Nascerà la London Swinging anche grazie a Dusty Springfield. Cadrà poi, per così dire, in disgrazia anche lei negli anni 70-80, purtroppo anche per un coming out troppo frettoloso, ma quanto mai giustificabile. Gli pongono la domanda com'è che non un artista come lei non è mai stata vista a fianco di un uomo, e lei lascerà una risposta abbastanza intuibile e dirà: io ho capito quello che mi piace veramente oltre la musica, e quindi questo è. Da quel giorno in avanti, purtroppo, le case discografiche non dico che l'allontaneranno, ma non sarà più vista benissimo da una società conservatrice e troppo bigotta. Dusty Springfield, una grandissima fonica, una grandissima voce, io non so se si è capito, sono un suo grande tifoso, e ma mi un pelino, proprio un pelino. Ma infatti è stata una cantante britannica che è paragonabile alla Mina da noi, ha fatto proprio la storia cool britannica, assolutamente importante, e venne anche in Italia a Sanremo al grandissimo festival dove si innamorò, grandissimo festival, e che fu, perché diciamo che vabbè, lasciamo stare, e si innamorò della canzone Io che non vivo senza te, e chiese proprio alla sua amica e futura manager e quant'altro, come hai detto tu, di reinterpretare questa canzone scritta da Pino Donaggio, e divenne You Don't Have to Say You Love Me. Ma... You Don't Have to Say You Love Me, esatto. Questa qui, che ormai bisogna cantarla, perché sennò col titolo è Io che non posso stare più di un'ora senza te, esatto. Ecco, mi è venuto in mente il titolo italiano, è proprio quella, e poi dicono che non so niente di musica italiana, ma lasciamo stare William. E invece sono voci vere, ahimè. Ma guarda che lei era una perfezionista come te, infatti per cantare bene questa canzone si fece mettere il microfono in fondo alla tromba delle scale, lei si mise proprio in fondo col microfono davanti e cantò questa canzone ottenendo proprio l'eco che voleva, una chicca di una canzone splendida. Eh sì, e noi torniamo a Burt Bacharach perché non vorremmo trascurarlo troppo. Come dicevo in precedenza, è stato il direttore d'orchestra della grandissima Marlene Dietrich, con cui si narra ci sia stata anche una tenera amicizia, ma sono voci di corridoio. Burt sta smentendo qui al mio fianco. Infatti ho visto che ha fatto una faccia strana. No, infatti io subito smentisco queste vociacce, ma si sta parlando del passato, per cui un avvezzo alle storie d'amore come lui, che le ha cantate, suonate e scritte, figuriamoci se può andare a infettare una carriera meravigliosa, ci mancherebbe altro. Però molto più importante è il fatto che grazie alla tecnica che lui dalle accademie è riuscito a imparare, con la partecipazione a questi concerti, a questi spettacoli, riesce anche a rubare il fatto di facile fruizione, di easy listening, e sposerà queste due caratteristiche mettendo insieme la famosa scrittura baccarachiana, ai quali si sono ispirati anche i Beatles, ai quali si sono ispirati tuttora quelli che vogliono proporre un easy listening. Assolutamente, e tra l'altro il fatto che abbia scritto tutte le sue canzoni insieme a Hal David segna proprio un punto particolare a livello proprio caratteriale. Infatti Bacharach era molto più romantico, spensierato, invece Hal David aveva quel tocco di cinismo che inseriva nei testi, che andremo a sentire fra pochissimo. L'interprete Gene Pitney, famosissimo anche in Italia, e possiamo ricollegarci anche ai festival di Sanremo, perché con, esatto, Gene Pitney avranno avuto un picco incredibile, un musicista, un cantante incredibile, un interprete bravissimo. 24 Hour for Tulsa, e poi Elisa vi spiegherà il perché di questo testo. Dearest, darling, I had to write to say that I won't be home anymore, for something happened to me while I was driving home, and I'm not the same anymore. Oh, I was only 24 hours from Tulsa, only one day away from your arms. I saw a welcoming light and stopped to rest for the night, and that is when I saw her as I pulled in outside of the small motel. She was there, and so I walked up to her, asked where I could get something to eat, and she showed me where. Oh, I was only 24 hours from Tulsa, only one day away from your arms. She took me to the cafe, I asked her if she would stay, she said, okay. from Tulsa. Only one day away from your arms. The jukebox started to play, and night turned into day as we were dancing closely. All of a sudden I lost control as I held her charms, and I caressed her, kissed her, told her I'd die before I would let her out of my arms. Oh, I was only 24 hours from Tulsa, only one day away from your arms. I hate to do this to you, for I love somebody new. What can I do when I can never, never, never go home again? E questa era 24 Hour from Tulsa di Jenny Pitney. E avete notato questa canzone come allegra, come romantica, come dolce? Ma pensate che in realtà Jenny Pitney sta cantando un vero e proprio tradimento, cioè si sta confessando alla sua amata dicendo: guarda, tra 24 ore sarò da te, tra le tue braccia, amore mio. Solo che mi stanno un attimo tirando la giacca, che c'è una ragazza qua dietro che mi sta baciando, quindi mi sa che non riesco a tornare per cena. Un po' di cinismo non manca mai in una scrittura che rimane pur sempre romantica e dolce, questa bivalenza che è molta tecnica ma anche molto sentimento tra Al David e Barb Baccarat, due figure opposte per così dire, ma che si sono commistionate veramente alla perfezione. Di Jim Pitney possiamo dire anche lui grandissimi successi, soprattutto riflessi poi nella nostra penisola, non solo grazie a Sanremo ma anche perché reinterpretati da interpreti italiani, e rappresentano secondo me quello che è stato il boom economico degli anni 60, anche la musica che andava nelle spiagge. Oh Carol, quella famosissima, quando c'erano un po' di soldini per andare a fare nella tintarella. Sì, tintarella di luna, non è certamente sua questa, ma però per dire questi boogie boogie, questi twist che andavano tantissimo negli anni 60, motivetti di spensieratezza e motivetti di positività e entusiasmo. Noi adesso andiamo avanti perché la nostra scaletta, pensate un po', già da questi successi è solamente agli inizi, perché abbiamo separato queste nostre due ore a disposizione a temi. Quindi siamo partiti con gli albori, proseguiremo poi con gli anni d'oro e arriveremo a tanti altri argomenti, non vi vogliamo anticipare niente, che hanno fatto la carriera del grandissimo Barb Baccarat. Adesso vi parliamo di un brano che ha interpretato Trini Lopez, che non è un cantante famosissimo, ma che ha lasciato un brano molto importante nel folklore popolare messicano, il famoso Celito Lindo. Esatto, una canzone proprio a tonalità verde-giallo, insomma, un po' latinoamericana. Mariachi. È la tipica da mariachi, quelli quando stai mangiando, non so, da Acapulco, ti vengono intorno. Ai ai ai ai. Esatto, esatto. Questo. Ma infatti era un grande chitarrista, oltre che cantante. Sì, sì. Trini Lopez, lo ascoltiamo con Made in Paris. Something to see how the fellas follow the girls. They're all in search of love. There isn't a lover who doesn't discover that if it's made in Paris, you can bet that there is a girl for every boy. Dreams are made in Paris every night. They come true. Can't you hear Paris calling you? Are everywhere. The scent of their perfume is meant to go right to your head. So don't just sit and stir with the fun and the laughter, the good times you're after. Just be made in Paris. If you don't know how to speak French, you'll understand. Love is made in Paris every night. Rain or shine, go get yours. I've got mine. Find your dream. Find your love. I've got mine. Go get yours. Hey! accattivante e accattivante, la scrittura molto pop ma molto raffinata, questo è il leitmotiv di Barbacara, come ho già detto diverse volte, le emozioni sono tante. Io ho avuto una grande fortuna, al Pala di Andrea di Ravenna ho potuto vederlo, gli ho stretto anche la mano tra lacrime e emozioni solo mie, perché sinceramente il pubblico non è che partecipasse più di tanto, rimaneva solo bocca aperta a dire sì. Ma anche questa è sua. Ma e poi quelle persone che io ho consigliato la visione del concerto mi hanno aspettato fuori e mi hanno detto grazie, grazie, grazie a lui, cioè voglio dire, io non è che... Ricordo che Barbacara alla tenera età è un adolescente di 85 anni, è un uomo ancora con la schiena dritta, non solamente coi principi ma soprattutto con la colonna vertebrale, ha la capacità di riuscire a condurre un'orchestra di infiniti elementi, ha la capacità di ammagliare con un carisma che non è dettato dall'età, che non è dettato dal talento, ma è dettato da non so che cosa, non ve lo so spiegare, perché il talento e il carisma, essendo impercettibili, non si riescono a spiegare a parole. Io posso solo dirvi che, entrando nel palcoscenico, una volta che si era schierata l'orchestra, si è presentato questo signore, che non dimostra neanche la metà degli 85 anni che ha sulla carta d'identità, ma così, semplicemente, col suo completo scuro, dondolando queste braccia lunghissime, queste mani enormi, e io all'inizio ho pensato... Peccato però che abbia questa asincronia nel movimento delle braccia, perché sarebbe perfetto. Ci sono arrivato dopo, vedendo come dirige l'orchestra. Lui non ha assolutamente un movimento asincrono nelle braccia. Lui ha semplicemente una musica che gli ronza in testa perennemente, che gli detta chissà quale divinità superiore. Lui costantemente dirige una sua immaginaria orchestra anche nei momenti in cui la musica non c'è per noi comuni mortali, ma nel suo cervello probabilmente è presente, anzi è presentissima. Quando poi lo si vede effettivamente all'opera, che con una mano suona solamente le sue semplici melodie e con l'altra gestisce un'orchestra infinita di elementi preparatissimi, si capisce veramente che quando c'era da distribuire il talento, probabilmente io compreso e tanti altri siamo andati in bagno e Barbacara ha fatto la fila due volte addirittura. Infatti 85 sì. Anni suonati, ma suonati bene, bisogna dirlo. Suonati bene, suonati proprio bene. E sì. Adesso ci andiamo a sentire un altro pezzo bellissimo di Lou Johnson, Always Something There to Remind Me, che facciamo prima a cantarla che a dirla, perché è un pezzo veramente fantastico e adesso ce l'ascoltiamo. Qualche problema tecnico inevitabile quando i dischi sono pochi e bisogna metterli insieme tutti in una volta. Peccato, perché questo è un inizio veramente un incipit incredibile. E adesso prima o poi arriverà Always Something to Remind Me. Ricordo questo grande successo, riusciremo prima o poi a beccarlo, mi sa che l'ho già preso. Sì, se no, se volete vi dico che nel 1962 brava Elisa, di qualcosa. Nel 1962 brava. Ha firmato come cantante solista con la Big Top Records nella casa editrice del Brill Building, lo stesso super edificio dove appunto lavorava Barbacara e Hal David, dove appunto si sono conosciuti, e anche lei giustamente lavorando nello stesso edificio riuscì ad incontrarli e a farsi appunto scrivere almeno due o tre brani fantastici che ricorderanno appunto tutta la sua carriera, incentrata proprio su questi due grandi compositori. Però mi sa che abbiamo altri problemi di regia. No, adesso parte, adesso deve partire, altrimenti sfondo il lettore. You used to walk along with me, and every step I take recalls how much in love we used to be. Oh, how can I forget you when there is always something there to remind me? Always something there to remind me. Always be a part of me. Oh, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. When shadows fall, I pass the small cafe where we would dance at night. And I can't help recalling how it felt to kiss and re-attack. Oh, how can I forget you? I

durante una sessione di registrazione con il gruppo The Drifter e stava scrivendo alcune canzoni per loro, ma rimase folgorato da una voce sua dente. Questa voce era proprio di Dionne Warwick, una grandiosa cantante che inizierà una tripletta insieme a Barbacara e Hal David, che scriveranno famosissimi successi proprio a pennello, come un sarto veste sì. Il vestito potrebbe vestire me, che sono abbastanza difficile da indossare. Ci sentiamo Walk On By. If you see me walking down the street and I start to cry each time we meet, walk on by. Si nota tutta la capacità, tutta la furbizia di questo grande compositore. Quegli anni sono anni di Motown, che è la città delle Hitsville, dei grandi successi. Quindi da una scrittura più bianca improvvisamente si passerà con la stessa facilità e come per magia a un bellissimo soul. Potrebbe essere tranquillamente un pezzo registrato a Detroit, e invece no, è un pezzo di Burt Bacharach. Guarda caso Isaac Hayes ne farà una soul session lunga 12 minuti, perché si può facilmente trasformare nel soul più facile e più intuibile. Dionne Warwick, anzi Dionne Warwick, perché in realtà fu proprio un piccolo errore di trascrizione, perché il suo vero nome è Warwick e divenne Warwick. Ma io dico, come si fa a questi livelli sbagliare queste piccolezze? Come se io in una copertina Willy avessi scritto il tuo nome senza una L. Non ti potresti mai sbagliare. No, assolutamente, mai. Difficilissimo che capiti ciò. Pensa che questo brano paradossalmente è il brano col quale io conosco il grande compositore. Riesco a rubare innocentemente una cassetta dimenticata sul sedile di un'auto che stava andando in demolizione, lo trovo reinterpretato da Mina. Addirittura, pensa sì. Pensa un po'. E dico, ma chi è questo nome strano? Non è neanche pronunciabile. Mi informo, vado avanti nell'ascolto e scopro che ogni brano che ha fatto è un grandissimo successo. E quanti premi ha vinto, tra l'altro. E quanti premi ha vinto, quanti riconoscimenti che magari con l'andare avanti della trasmissione citeremo. Dionne Warwick, una tripletta che vi vogliamo proporre, anzi un poker, leggo dalla scaletta. Adesso ascoltiamo The Way to San Jose, sempre di Dionne Warwick. Do you know the way to San Jose? I've been never were are parking cars and pumping gas. You can really breathe in San Jose. They've got a lot of space. There'll be a place where I can stay. I was born and raised in San Jose. I'm going back to find some peace of mind in San Jose. Fame and fortune is a magnet. It can pull you far away from home. With a dream in your heart, you're never alone. Dreams turn into dust and blow away. And there you are, without a friend. You pack your car and ride away. I've got lots of friends in San Jose. Gas. I've got lots of friends in San Jose. Alle 11:15 minuti torniamo in diretta per i momenti magici insieme al grande Bart Baccarat, adesso insieme alla grandissima interprete Dionne Warwick, la sua preferita. Impressione personale, non sono giustamente qui e ci mancherebbe altro a criticare, ma semplicemente a citare una caratteristica di questa grande soul singer, che è una voce atipica per essere una musicista di colore. Esatto, infatti ha proprio una voce che sembra più una bianca. Sì, sì, è molto delicata, ma guarda caso questa commistione bianco e nero sposava perfettamente quello che Bart voleva. Sarà la sua preferita, con lei ci sarà un flirt vero e proprio. Esatto, a quanto pare. Altro che lavare i calzini durante i concerti. Sì, questo proprio è stato conclamato. Non finisce benissimo, però sarà una storia d'amore vera e propria. Sarà la sua collaboratrice, la sua interprete preferita, e all'inizio di ogni concerto lui non dimentica mai di ringraziare Al David e Dionne Warwick. Ricordo, Al David scomparso a 91 anni l'anno scorso, evidentemente non manco di augurargli una buona permanenza e un buon viaggio nella di là, però insomma se l'è goduta. Beh, direi che altri 91 anni sono nati per bene. Altri 91 anni sono nati per bene, accidenti. E proseguendo col soul, adesso abbiamo un brano che è stato reinterpretato da tantissimi artisti. In infinità di volte, I Say a Little Pray for You del 1967. And I wake up before I put on my makeup. I say a little prayer for you. Walk home in my hair now and wondering what dress to wear now. I say a little prayer for you. Forever, forever, you stay in my heart and I will love you forever and ever. We never will part. Oh, how I'll love you together, together. For the bus, dear, while riding, I think of us, dear. I say a little prayer for you. At work, I just take time, and all through my coffee break time, I say a little prayer for you. I say a little prayer for you. admit to you, I'm in love with you. And so my friend, say you love me too. Why don't you answer my friend? You know every day I say a little prayer. Una canzone fantastica, un altro classico immortale del nostro duo Bacharach David, che scontento dell'arrangiamento frettoloso dell'album The Windows of the World, il perfezionista Bart, che abbiamo qui a fianco a noi, come ricordiamo, che ci sta bacchettando, in realtà era così ossessionato di voler creare una canzone perfetta, alla fine si arrese e scrisse questa banalità, no? Proprio sì. Una cosa così, dice vabbè, è venuta male, la fischiettata. Esatto, ma il prossimo pezzo è veramente qualcosa che ti tocca il cuore. I'll Never Fall in Love Again di Dion, e questa ha vinto 2 Grammy nel 70, e adesso ce l'ascoltiamo. Al suo cinismo, Al David sapeva scrivere anche grandi canzoni di amore. In questo caso Dion sta lamentando evidentemente di una delusione e si lamenterà dicendo: prometto di non innamorarmi mai più. Ma è molto difficile ascoltando questa musica, estremamente difficile. Ricordo di Dionne Warwick, tra l'altro, che si può dire veniva da una famiglia di artisti, una famiglia che ha numerosa. Sì, infatti, perché ho letto nella sua biografia al tempo che tra la zia, i cugini, la mamma, le sorelle, fecero dei gruppi gospel infiniti. E infatti si dice anche che fosse la cugina di Whitney Houston. Quindi una dinastia di arte. Forse anche per questo questa voce bianca. Può essere. Beh, una voce contaminata che non te l'aspetteresti mai da una cantante di colore. Perfetto a quello che serviva il grande maestro in un momento in cui cercava di mettere assieme sonorità più legate alla Motown. Abbiamo detto dei grandi successi, salutiamo Dionne Warwick, che magari riprenderemo più tardi, e andiamo a Jackie DeShannon. Jackie DeShannon, una grandissima artista per quanto riguarda la cultura beat in seguito negli anni 70, ma in questo caso ci fa capire cosa ha bisogno veramente il mondo, cioè dell'amore. A fra pochissimo. What the world needs now is love, sweet. only think that there's just too little of what the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another mountain. There are mountains and hillsides enough to climb. There are oceans and rivers enough to cross, enough to last till the end of time. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world just for some, but for everyone. Lord, we don't need another meadow. There are cornfields and wheat fields enough to grow. There are sunbeams and moonbeams enough to shine. Oh, listen, Lord, if you want to know. Che voce la nostra Jackie DeShannon con questo What the World Needs Now is Love, che venne anche utilizzato all'interno di un film molto particolare che si chiama Bob and Carol e Ted and Alice, che fu veramente una trama toccante, perché in realtà non si parlava di sentimenti in modo così aperto. Infatti erano due coppie che andavano dallo psicanalista e parlavano proprio dei loro tradimenti, dei loro sentimenti, capendo che in realtà l'uomo è anche poligamo, anche se con lo spirito è sempre molto legato alla monogamia. E quindi siamo giustificati. Siamo giustificati. Però insomma, per quegli anni era veramente un tema scottante. Sì, e questo appunto definisce lo spirito, che spiegheremo più tardi, contrariamente a quello che si pensa, molto progressista di Burt Bacharach. Nonostante queste note estremamente dolci, si pensa sia stato un conservatore. Non è assolutamente così, semplicemente lui sapeva scindere perfettamente il proprio pensiero personale dalla musica. Lui si occupa di note e appunto fa tutto ciò al meglio, e lo stiamo sentendo. Ora, Elisa, ti chiedo di presentare i Carpenters. Un grandissimo duo composto dal fratello e la sorella Richard e Karen Carpenters, che canteranno una canzone che li rese veramente popolarissimi. Sto parlando di Close to You, ed è la prima canzone che divenne più famosa perché cantata da loro che rispetto alla cantante di Dionne Warwick o addirittura Chamberlain. Quindi ce la possiamo ascoltare. E vai. Do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time? Like just like me. They long to be close to you. Secondo uno studio della Michigan State University, una dieta ricca di ciliegie riduce le malattie vascolari in quanto... Sì, ho capito, signor esperto, ma la frutta di stagione, quella buona come una volta, maturata sulla pianta, la trovate in via Scandellara a Sertebarrà, ai poderi delle rocche. La frutta? Oh, non ho mica finito! Albicocche, prugne e ciliegie sono buone e anche a buon mercato. La frutta chilometro zero la trovi a Bologna, ai poderi delle rocche, in via Scandellara a Sertebarrà. E dal 1° giugno, poderi delle rocche è anche bottega di campagna amica. Pesca una carta e scopri il tuo futuro. Oddio, l'impiccato è una cosa grave? No, l'impiccato è la nuova osteria in via del Fratello, dove potrai degustare buon vino, ottime birre artigianali e saziarti con crostini, taglieri e crescentine fatte a mano, proprio come in una vecchia osteria. Ma allora il mio destino sarà fortunato. Dipende da te e se andrai all'osteria l'impiccato in via del Fratello 39A. Per info 348 87 45 204. O cercaci su Facebook. Sai che in questo periodo ho una gran voglia di sport? Ah sì? Conosco un posto che lo sport lo fa davvero vivere. Si chiama Decathlon. Possiamo trovarci le attrezzature per tantissimi sport al prezzo più basso del mercato. Allora andiamo subito da Decathlon. Con la varietà di prodotti che offre possiamo iniziare uno sport diverso tutte le settimane. Non ci resta che correre. Decathlon, stiamo arrivando. Decathlon Bologna è in via Tito Carnacini al Parco Meraville, uscita 9. Decathlon, lo sport è per tutti. Lo sport è di tutti. E dai, fatti un drink. No, stasera no. E dai, perché? Perché domani voglio fare un prelievo. E allora da quando per andare in banca bisogna essere sobri? Ma no, qui i soldi non c'entrano. Domani vado a donare sangue. Insomma, domattina non sono io quello che prende. Domani mattina io sono quello che dà. Però... Associazione Donatori Volontari Sangue. Per info, Centro Trasfusionale Sant'Orsola 051 6363 539. O Centro Trasfusionale Bellaria 051 6225 404. www.fidas-advs-bologna.org. Bologna ha bisogno di te. Cora! Venerdì 12 e sabato 13 luglio l'estate di Castel San Pietro è Indigest Festival 2.0. DJ set, aperitivi e musica live. Sul palco Linea 77, Red Ska, El Carmaso, Gazebo Penguins e molti altri. Indigest Festival 2.0 è a Castel San Pietro, all'Arena Comunale. Ingresso gratuito con tessera .0. Per info www.zeroeventi.altervista.org o cerca Indigest Festival su Facebook. Iscriviti al Fujiko Live Show. Fujiko Live Show è il contest di band emergenti che mette in palio la realizzazione di un disco in una sala di registrazione professionale. Iscriviti ed esibisciti sul palco dell'Up 16 in via Zamboni 16/D insieme ad altre band per la sfida dell'anno. Al Fujiko Live Show sono ammessi gruppi di ogni tipo e tutti i generi musicali. Per info e iscrizioni, concorsi @radiocittafujiko.it oppure telefona al 339-1100273 e comincia a suonare. Sai quel nuovo sound che stai cercando? Bene, senti questo! Promises, promises, I'm all through with promises, promises. E ogni tanto mettiamo questi stacchetti, che non sono poi stacchetti, sono grandi successi del maestro Barbacar, di cui stiamo facendo una monografia. Quello che mi è venuto in mente durante la pubblicità, che vedo il signor Bart che sta facendo degli scongiuri, perché di solito questi monumenti si fanno alle persone che vivono in un'altra dimensione o comunque che sono hanno lasciato il nostro mondo. Il mondo dei più. Eh no, tutt'altro, caro Bart. Anzi, dopo vi citerò poi un episodio molto simpatico, per così dire, che spero io di arrivare a quello che è arrivato Barbacar, ci mancherebbe altro, soprattutto con la lucidità e il talento. Allora, cara Elisa, abbiamo deciso di dividere queste due ore in tre parti, quattro scusa, ben distinte e separate. Mi sono confuso perché adesso siamo alla terza ed è per un'altra grande passione di Barbacar, cioè il cinema. Il cinema che ha accompagnato, grazie anche a lui, le adolescenze e le vite di tante persone che grazie al grande schermo, queste immagini di qualcuno in bicicletta piuttosto che un western, insomma, è riuscito veramente ad accompagnare pellicole che spesso sono state anche molto criticate. Sì. Lui le ha salvate. Sì, è vero, è sicuro. Sono stati dei flop incredibili salvati dalla sua musica, scritta dopo averli visti, fra l'altro, e nelle ristampe, permettetemi il termine, cinematografica, il regista e il produttore hanno visto bene, va, prestaci la canzone, magari migliora anche il magari film. Magari salviamo un po', magari con salviamo qualche pezza. Con qualche pezza riusciamo a salvare il film. Cominciamo allora dalla sua prima colonna sonora, The Man Who Shot Liberty Valance, con John Wayne, un grandissimo classico dei film western, una trama interessante e un brano bellissimo. When Liberty Valance rode to town, the women folk would hide, they'd hide. When Liberty Valance walked around, the men would step aside. 'Cause the point of a gun was the only law that Liberty understood. When it came to shooting straight and fast, he was mighty good. From out of the east, a stranger came, a law book in his hand. Oh man, the kind of a man the West would need to tame a troubled land. 'Cause the point of a gun was the only law that Liberty understood. When it came to shooting straight and fast, he was mighty good. Many a man would face his gun, and many a man would fall. The man who shot Liberty Valance, he shot Liberty Valance. He was the bravest of them all. The love of a girl can make a man stay on when he should go. Stay on, just trying to build a peaceful life where love is free to grow. But the point of a gun was the only law that Liberty understood. When the final showdown came at last, a law book was no good. Alone and afraid, she prayed that he'd return that fateful night. Oh, that night. when nothing she said could keep her man from going out to fight. From the moment a girl gets to be full grown, the very first thing she learns, when two men go out to face each other, only one returns. He was the bravest of them all. È il più coraggioso di tutti quanti e sarà anche il più sincero, perché alla fine dirà, alla fine del film, che non è stato lui a ucciderlo, ma una persona che gli ha teso un agguato durante il duello, che era nascosto dietro un abitato. Una trama interessante, persone che si ritrovano durante un funerale, appunto, e si dichiarano. La colonna sonora con questo brano a cura di Burt Bacharach, ovviamente i riconoscimenti saranno tantissimi. Mi colpisce dal punto di vista emotivo come Burt Bacharach già ai tempi sa utilizzare gli effetti speciali. Lo sparo che ucciderà Liberty Valance è qui riportato dalle percussioni, no? Bang, meglio dire. Ma infatti lui, oltre a studiare ovviamente il pianoforte e come dirigere l'orchestra, fece anche studi legati alle percussioni. È proprio certo. Questo che lo aiutò anche a filtrare, mischiare tutti questi generi, creare queste fantastiche composizioni, mettere insieme ritmica e melodia. Abbiamo tenuto compilando questa playlist il meglio, probabilmente, almeno per quanto mi riguarda, più o meno a metà, perché stiamo parlando di quello che secondo me, questo è un parere personale, è il più bel pezzo pop di tutti i tempi, reinterpretato da tanti altri musicisti ma non fatto così bene come quando la scrittura di Burt Bacharach riuscirà a mettere in note questa goccia di pioggia su di me. Eh sì, nel film, il grandissimo film Butch Cassidy del 69, che vinse. Ben due Oscar per miglior canzone e miglior colonna sonora. Anche questa è una trama struggente, un altro western. La scrittura è strana perché sì, è un country, ma ha un incedere con il banjo e altri strumenti estremamente honky tonk, cioè blues. Non ci resta che augurarvi un buonissimo ascolto. quasi tutto è giusto ascoltarla, questa bellissima canzone, la voce del grande cantante country B.J. Thomas, autore di altri grandi successi, ma questo in particolare a cura di Burt Bacharach sarà veramente storia della musica, storia del cinema. 1969, premio Oscar, quale miglior canzone? Butch Cassidy and the Sundance Kid non sono altro che Paul Newman e Robert Redford. Alla fine, storia d'amore immancabile, entrambi si innamorano della stessa donna e Robert Redford andrà via a cavallo con lei e lui da lontano li guarderà, ovviamente il Paul Newman sconfitto, e intanto si intona questa canzone. Gocce di pioggia su di me non sono altro che le sue lacrime che fanno da colonna sonora a questa fuga, tra virgolette, d'amore che c'è sotto il suo naso, che però è un duro e non può confessare, si limita a esprimerle in note. Il film finirà in maniera romantica anche nel senso del duo come eroi. Sundance Kid, di cui è ripreso il titolo dell'omonimo festival, fra l'altro, per il personaggio che interpreta Robert Redford, saranno fuggiaschi in Bolivia, dall'western andranno in Bolivia e finiranno uccisi durante un attacco della polizia che loro risponderanno da soli praticamente contro un esercito armato, finiranno male, finiranno ovviamente pistolettati. Due abili fuori legge. Sì, esatto, diciamo che sono più abili nella recitazione, come Burt Bacharach è molto più abile con la musica, decisamente. Le nostre colonne sonore però non finiscono qui, è vero Elisa? Esatto, perché per esempio, siccome il film che abbiamo appena citato era anche un film molto degno anche dalla critica, era abbastanza rivalutato, con The Look of Love, che è un pezzo ovviamente fantastico, e venne proprio utilizzato nel film Casino Royale, della parodia di James Bond, che comunque ricevette la nomination come miglior canzone all'Academy Awards. Però in realtà dobbiamo ricordare che inizialmente era solamente strumentale, e poi Hal David, il grande paroliere, riuscì in qualche modo ad aggiungere le parole giuste a questa canzone scritta da Bacharach, che è interpretata dalla grandiosa Dusty Springfield, e noi adesso ce l'ascoltiamo. The look of love is in your eyes, a look your smile can't disguise. The look of love, it's saying so much more than just words could ever say. And what my heart has heard, well, it takes my breath away. I can hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited, waited just to love you. Now that I've found you, you've got the look of love. It's on your face, the look, the time and erase. Be mine tonight. Let this be just the start of so many nights like this. Let's take a lover's vow and then seal it with a kiss. Wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited, waited just to love you. Now that I've found you, don't ever go, don't ever go. Thank you. Ed è una splendida soul ballad, una soul ballad molto bianca, perché la voce è di Dusty Springfield. Come vi avevo detto in precedenza, ne torneremo a parlare, torneremo ad ascoltare la sua voce. Eh sì, perché Barb Baccarat e Dusty Springfield hanno salvato anche questo film. Esatto, soprattutto questo film. Un flop clamoroso. Un cast enorme, 5 registi, De Niro, c'erano veramente Woody Allen, un sacco di attori, però la critica l'ha bocciato in pieno proprio. Evidentemente la massa non fa certamente la qualità. La musica invece, anche seppure con pochi ingredienti, l'ottimo cuoco Bart è riuscito a cucinare pietanze eccezionali, legate dall'amore e il buon gusto e una grandissima tecnica. Con così poche note, con così pochi accordi, essere di ispirazione per la musica anche attuale per quanto riguarda il pop e l'easy listening. Beh, stiamo parlando di colonne sonore salvate. La trama di Alfie, il brano che andiamo ad ascoltare adesso, è estremamente interessante, anche se molto retrograda, mi viene da dire. Beh sì, diciamo un giovanotto sui 30 anni che guida le limousine, fa un po' il cascamorto. Sì. Meno male che è arrivato anche qui Barb Baccarat a rialzare la qualità e il livello. Lui è molto legato, tra l'altro, a questo brano. Molto, anche perché Miles Davis era veramente legato. Chapeau. A sua volta questa canzone, quindi Bart stesso, che ci può confermare qui presente con noi che in realtà se Miles Davis dice che una canzone è bella, non si può di certo contraddire. E noi ci ascoltiamo Alfie. What's it all about, Alfie? Is it just for the moment we live? What's it all about when you thought it out, Alfie? Are we meant to take more than we give? Or are we meant to be kind? And if only fools are kind, it is wise to be cruel. Find love every day, Alfie, ed è veramente un testo semplice. Io non capisco perché gli italiani delle volte si mettono a scrivere cose incredibilmente cervellotiche, strane, giri di parole, mentre invece con la semplicità è sempre meglio togliere delle volte piuttosto che aggiungere. L'importante è togliere con qualità, facendo restare il meglio, facendo restare il nocciolo, e questo Barb Baccarat lo sapeva, e come. Film molto particolare, anche questo purtroppo un mezzo flop, ma il resto della colonna sonora non lo fu affatto, perché è scritta a proposito di giganti del jazz dal grandissimo Sonny Rollins. Esatto, e vinse giustamente anche qui un grande premio, perché non poteva mancare. Certo, sì, perché ne ha vinti pochi. Esatto. Quindi ricordo 70 brani nella classifica charts americana. Immagina casa sua, cioè una murata di premi. Sì, che sì. Non sa più cosa. Sai quando apri lo sgabuzzino e ti crollano tutto addosso, più o meno. Probabilmente quando fanno i tornei amatoriali dicono: scusa Bart, si presti una coppa, una esatto, targa, una casa, quella una che ti casa, viene in mente. Che ti viene. e aggiungo 50 anche nelle chart UK, cioè negli Stati Uniti, un grandissimo per l'epoca e non solo, anche ai giorni nostri. Parlavo di una trama strana, Elisa, molto retrograda. Senti un po' quant'è retrograda questa, da Wives and Lovers addirittura. Si parla di una coppia che litiga e si divide tutto. Ovviamente non si può dividere la bambina. Beh. E quindi come decide di risolvere questa situazione? Beh, fa un altro figlio, così, una a destra e una a manca. È un bello spot per la chiesa questo. Ma infatti, cioè, a proposito di film leggermente fuori tema per l'epoca, cioè questo però è anche, cioè, anche oggi sarebbe addirittura... Sì, no, ma questo non lo fa neanche uscire, secondo me, oggi, no, una trama del genere, perché assolutamente... Ma la musica invece è assolutamente azzeccata. Jack Jones, Wives and Lovers. Hey, little girl, comb your hair, fix your makeup. Soon he will open the door. Don't think because there's a ring on your finger, you needn't try anymore. For wives should always be lovers too. Run to his arms the moment he comes home to you. I'm warning you. Day after day, there are girls at the office, and men will always be men. Send him up with your hair still in curlers. You may not see him again. For wives should always be lovers too. Run to his arms the moment he comes home to you. He's almost here. Hey, little girl, better wear something pretty, something you wear to go to the city and dim all the lights, pour the wine, start the music. Time to get ready for love. Dim all the lights, pour the wine, start the music. Time to get ready for love. Time to get ready. Time to get ready for love. Time to get ready. È curioso come non riesco ad abbassare il cursore, aspetto fino all'ultimo secondo. Ma come si fa con dei pezzi del genere? In effetti è molto difficile tutto ciò. Abbiamo fatto un ordine cronologico anche per quanto riguarda la filmografia, chiamiamola così, come colonna sonora, e arriviamo a un brano che nel cuor mi sta, anche perché è stato un brano fra quelli che hanno salvato gli anni bui, cioè hanno salvato gli anni Ottanta. È un periodo di grande crisi per Barbacara, beh, chi non lo era fra i grandi artisti in quel periodo, e lui non riesce a esprimere la sua creatività. Evidentemente le sonorità troppo sintetiche e elettroniche non fanno affatto per lui. Beh, però un colpo di coda arriva, e come, ed è un brano che io ho definito il mio scheletro nell'armadio. Beh, non devi dire così, perché nell'82 vinse sia il premio Oscar nel film che il Golden Globe come miglior canzone, appunto da che ha avuto poi anche numerose cover, dal film di Arthur's. E per me è un capolavoro assoluto, rende veramente l'idea di una passeggiata in macchina fra i grattacieli di New York, attraversando questi ponti enormi costellati da grattacieli, con una bellissima donna di fianco, intanto che l'unica cosa che è importante da fare è innamorarsi. The Arthur's Theme, a fra poco, dopo la pubblicità, state con noi. Closing down the town. Wake up in

nostra passeggiata, la nostra conoscenza con Bar Baccarat sta per terminare. Sta per terminare, anche se ovviamente rimarrà nel nostro cuore, anche se ovviamente i suoi dischi e le sue composizioni non smetteremo mai di goderle, di ascoltarle. 12.8 minuti, 333-1809494 per gli sms, alla vostra coppia di lunghi del giovedì con la forma dell'Acqua Special Summer, William Piana e Elisa Iacobucci, sono arrivati adesso a presentare chi è riuscito a estendere la scrittura, perché con questa facilità di riff si riusciva anche a ottenere dell'ottimo jazz. Ce lo sta facendo ascoltare Stanley Turrentin e il suo bellissimo sax tenore. Il brano, questo ragazzo innamorato di te, semplice, immediato, ma molto dolce. Questo ragazzo innamorato di te verrà reinterpretato con la tromba, originariamente, dal grandissimo Herb Albert, famoso non solamente per queste scritture più classiche, ma anche per i suoi interventi all'interno della disco music. Ricordate Rotation, Rise e tanti, tanti altri brani. Quanti artisti che hanno gravitato intorno al grande Bart Baccarat. Beh, ci stiamo passando anche noi adesso, anche se siamo molto più umili, decisamente più umili, però infatti, ci mettiamo tutto il cuore. Le sue sofisticate produzioni hanno toccato svariatissimi generi, appunto dal cool jazz al soul alla bossa nova brasiliana fino al pop più tradizionale, che hanno appunto coperto un arco di tempo che è quasi quattro decadi, come appunto le quattro parti della nostra puntata, che hanno toccato appunto i punti più importanti della vita di questo grande artista, che ebbe ovviamente degli studi che hanno attraversato ben quattro scuole di musica molto importanti. Ovviamente imparò anche la batteria, il violoncello, anche se nel suo cuore sono rimaste appunto il pianoforte e la sua orchestra, che ha usato ovviamente in tantissimi brani, che si divertiva con una mano a suonare il pianoforte, una a dirigere certo, come se niente fosse, proprio. Una coordinazione occhio orecchio mano incredibile alla davvero faccia della sua età, veramente capace anche adesso di cose realmente incredibili. Ho avuto la fortuna di assistere a un suo concerto ed è stata veramente un'emozione straordinaria. Ti spiegavo, tu lo sai meglio di me probabilmente, spiegavo alle ascoltatrici o agli ascoltatori che magari sono arrivati molto tardi a Bart Baccarat inconsapevolmente, perché magari lo conoscevano già, sicuramente. Dicevamo che I Say a Little Prayer è un brano che può essere tranquillamente soul and groove, no? Esatto. Beh, senti un po' l'organo Hammond B3 di Ruben Wilson come lo interpreta. Thank you. Ruben Wilson, organo Hammond B3, grandissimo per quanto riguarda il groove, ma soprattutto la tromba sotto la mia voce è di Lee Morgan, gigante dell'hard bop, gigante del jazz, grandissimo, secondo a nessuno, grande gusto musicale, quale migliore interprete per chi ha avuto un grande gusto per il pop. Barbacara qua di fianco a noi pare contento. Sì, va un sorriso, lui comunque è sempre molto gioioso, bisogna dire che anche se la sua vita è stata un po' comunque rilegata a storie d'amore magari finite un po' male, una figlia comunque un po' difficile, è sempre molto sereno, bisogna dirlo. Tra l'altro dirlo. Ha avuto questa gravissima disgrazia, no? Della figlia, sì, esatto, che era autistica e purtroppo si è suicidata all'età di 40 anni, però giustamente lui nella sua ultima biografia è riuscito in qualche modo a riesternare questo suo passato molto difficile, però comunque è riuscito anche ad ammettere che nonostante appunto la sua veneranda età riesce a lavorare tanto ed è l'unica cosa che lo rende felice, un po' come Woody Allen che sforna film per non pensare di morire. Lui dice giustamente: alla mia età posso continuare a lavorare e essere felice. Mi permetto di dire che è un po' più positivo lui di Woody Allen. Sì, assolutamente, solo un approccio lavorativo della serie, preferisco lavorare e tenermi impegnato perché è una cosa che giustamente mi piace, è la mia vita e non posso farne a meno. Un episodio curioso del concerto è stato come sia anche grande padrone di umiltà. Doveva presentare un brano che avrebbe eseguito al piano Fender, What the Friends Are For, avrebbe presentato, no? E fino a quel momento aveva suonato unicamente col piano tradizionale, quindi dopo aver presentato lo strumento del piano Fender elettrico, così lui cosa fa? Tranquillamente si siede al piano acustico, per iniziare a suonare e poi guarda al pubblico, allarga le braccia, prende il microfono, se lo picchia in testa e dice scusa, come per dire, oh guarda, beh, comincia a perdere dei colpi nonostante diciamo guarda un po', comincia a perdere dei colpi anch'io. È bello come si è proposto, in maniera non spocchiosa, assolutamente no, ma neanche come quella del vecchietto che ancora è in forma, no, che vuol fare il giovane per forza. Si è presentato per quello che è, probabilmente un genio della musica. Un grandissimo, e sicuramente è stato bellissimo il concerto. Altri episodi ve ne potrei raccontare fino ad annoiarvi più di quello che ho fatto fino adesso, fra l'altro. Ma come? Quindi facciamo questa volta interpretare un brano bellissimo, un altro di Barbacara, che è I'll Never Fall in Love Again, questa volta con la chitarra di un altro grandissimo funky jazz, cioè Grant Green. Restate in ascolto e a fra poco. Thank you. eccoci qua, ritornati sui 103.1 in questo jazz fantastico. E possiamo ricordare anche il momento in cui lo stesso Burt Bacharach si trasferì a New York e venne proprio folgorato dal jazz e dalla sua energia primitiva, e cominciò quindi a frequentare anche quei locali che divennero poi un culto, avendo così l'onore, l'occasione di vedere da vicino e anche magari incontrare gli eroi della musica afroamericana, su di tutti ovviamente Charlie Parker, Dizzy Gillespie, che in quel periodo aveva assunto anche una forma un po' scatenata del bebop. E poi, conoscendo il Bacharach, che divenne poi così celebre, sembrerebbe quasi lontano da lui, e invece il genio si sa che assorbe qualsiasi cosa possa incontrare sulla propria strada, e riuscendo così in qualche modo a incastrare nelle note le formazioni del jazz durante tutti gli anni 40. Certo, assolutamente, e soprattutto, cosa molto importante, lui sta continuando a scrivere musica. Ah sì, ha fatto quasi un musical. Sta finendo di scrivere un musical di cui ha fatto sentire al concerto due canzoni. Io ho detto, beh vabbè, sarà un po' bollito. Allora vi posso assicurare che le canzoni sono stupende. È un musical che andrà in scena a San Diego per il prossimo anno. Ha già inciso due canzoni, spero che al più presto siano anche commerciabili, ovviamente per il godimento delle nostre orecchie. È la collaborazione con Elvis Costello, giusto? Una delle cose più recenti che abbia fatto. La collaborazione con Elvis Costello, ha fatto un disco di cantautorato americano molto bello, che fu un grande successo. Fece una sorta di folk jazz estremamente interessante. Anche quello si poteva proporre, però del resto, come si sa, il tempo stringe, la voglia di parlare è tanta, la voglia di ascoltare musica è tanta, le contaminazioni sono ancora di più, per cui diventa un po' difficile. Citarlo, almeno verbalmente, è doveroso. Un disco bellissimo che ha fatto insieme al grande cantante americano Elvis Costello. Giunti a questo punto, le contaminazioni jazz non finiscono di sicuro, e Richard Groove Holmes, il suo soprannome già la dice lunga, questo grande tastierista, fa ascoltare a modo suo Do You Know The Way To San José, a fra pochissimo per i saluti. Torniamo in diretta anche per salutare il nostro Burt Bacharach. Io l'ho salutato a modo mio, improvvisamente, quando lui si è congedato dalla folla, una folla che, come ho detto, è stata freddina più che altro per lo stupore di aver conosciuto un genio del genere. In effetti molti brani non sapevano nemmeno che fossero composti da lui. Io, davvero invasato, anche se di solito è un comportamento che non mi appartiene, non ho resistito, e con le lacrime agli occhi sono corso verso il palco e pensavo di trovarmi una persona anziana che mi schivasse. Invece ho visto visto questo ragazzino che mi allungava la mano per stringermela, stretta forte, stretta poderosa, ha cominciato a dirmi qualcosa nella confusione, perché io vedevo le sue labbra muoversi, ma non riuscivo ovviamente a capire cosa dicevo, cosa diceva. Mi sono limitato a ripetere più volte thank you, che è una delle poche cose che so in inglese, non sapevo più cosa fare, ho iniziato a lanciargli dei baci con la mano. Tutto ciò ovviamente è stato dettato dall'istinto, chissà cosa avrà pensato di me. Io di lui ho pensato una cosa sola: viene in Italia ogni 10 anni, c'è stato nel 2003 al Naima di Forlì, si è congedato dicendo grazie a voi che siete qui, grazie a voi che siete qui, perché non so se tra 10 anni io ci sarò ancora. Beh, lui c'è stato nel 2013 e io mi sarei congedato da lui così. Sicuramente quando lei, signor Baccara, avrà 95 anni, lei ci sarà, io spero. Beh, sicuramente sarà un onore per tutto il mondo averlo ancora tra noi e regalarci ancora tanti grandi successi. Cara Elisa, è venuto il momento di salutare le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori che pazientemente si sono fatti questa pera di Bart Baccara e ovviamente non ci resta che dargli appuntamento magari al prossimo speciale insieme con La Forma dell'Acqua Special Summer. Quindi dalla vostra coppia di lunghi William Piana e Elisa Iacobucci, innanzitutto un buon appetito. Un buon appetito, visto che è ora. Si stavi addentando il microfono. Sì, pare. Infatti questa volta non mi sono portata nessuna merendina. È vero che avevi la merendina. Sono stata bravissima. Sì, sì, assolutamente. Scherzi a parte, buon appetito, buona giornata, buon weekend. Al prossimo Special Summer all'interno della Forma dell'Acqua. Restate all'ascolto, tra poco il GR e l'informazione. E soprattutto restate all'ascolto dei 103.1 di Radio Città Fugico nel suo palinsesto estivo. Ciao a tutti da Elisa Iacobucci, da William Piana e da Bart Baccara, lo sguardo dell'amore.